suonate niente male. Manca ormai poco alla fine. E mollare non conviene. Riesco certo a ricordare bei sorrisi, quante parole e tanta voglia di sfondare, vivere senza rete. Mi fermo e vi guardo anche se non ci siete. Sognavate tanto solo l'altro ieri, e che si avverino presto i vostri desideri. Ma ora l'esame s'avvicina, e quello che verrà sarà più bello di prima. Di studiare però non c'è il tempo, le passioni vi travolgono. Forse vicini e volte un po' lontani, ma sì, aspettiamo domani. Adriana, Alessia, Arianna, Noemi, Ilaria, Marianna, Marco, Angelo, Ruben, Francesco, Daniele, Ivan, Donato, Ninni, Giuseppe, Bartolo, Febe, Michele, Matteo, Francesco, Samuele. Mancano solo Giuseppe e Luigi. Stupite noi altri con i vostri prodigi. Tutti quanti cosa non farete per iniziare una bella estate? Cantate, suonate come in una fiaba. I ragazzi son Pinocchi e le ragazze sono fate. E penserà di voi la commissione sagace, che siete tutti bravi, ma adesso un po' di pace. Ragazzi di Quinta Musica, quanti ricordi resteranno in avvenire? Vi mancheranno i giorni di scuola, a botte di musica e Coca-Cola. Ma dov'eri voglia di studiare? Ma si sa, i ragazzi son come il mare, non sono mai fermi ed è bello ascoltarli, perché quello che dicono non è quasi mai banale. Ora però al lavoro per il vostro futuro, che l'esame si spera si fa una volta sola. E poi addio ai bei tempi della scuola. E poi addio ai bei tempi della scuola.